Allora, buonasera. Avete paura? Abbassate poco poco il volume. Grazie. È altissimo. Che canzone vuoi? Vabbè. Allora, io volevo ringraziare la polveriera. Grazie, Tasso, soprattutto Tasso. Perché in questi giorni c'è stato, per chi non lo sa, un presidio popolare e sono diversi giorni che è iniziato e sta continuando proprio per rendere questo spazio libero e accessibile a tutti. Quindi questo festival ha, secondo me, un'importanza ancora maggiore, anche se è già la quarta edizione, però questa secondo me è ancora più importante proprio perché è fatta in un momento critico dove ci siamo tutti uniti per portare avanti questo spazio e renderlo più attivo, più vivibile, quindi non solo lo spazio interno della polveriera ma anche quello esterno. Per questo grazie a tutti quelli che ci sono stati fino ad ora, che ci saranno e che ci sono. Detto questo, Edo, tocca a te, quindi concentrati. Okay. Grazie mille Francesca e complimenti per questa bella introduzione che hai fatto alla serata, insomma, anche per aver ricordato l'importanza del percorso che i ragazzi della Polveriera stanno facendo in questi giorni, in questi mesi. Per rispondere ad una situazione non facile che c'è per lo spazio, ma insomma in generale in città e non solo in questa città. E noi siamo molto contenti di presentare questa sera questo libro, Contrabbando di Upupe, di Eva Krushel, qua alla Polveriera, anche proprio per la fortissima attualità che i temi della poesia di Eva e di questo libro hanno, anche in relazione allo spazio in cui siamo, al festival in cui siamo e al momento, insomma, anche che questo spazio, la Polveriera e in generale gli spazi autogestiti in Italia non solo stanno attraversando. E è una serata molto particolare, prima di tutto per noi di Affluenti, perché alcuni qua ci conoscono già come gruppo, come collettivo nato a Firenze e poi andato anche ben oltre il contesto fiorentino, e che appunto dal 2016 ha iniziato un percorso di poesia in particolare, ma non solo, legato molto al cosmopolitismo, alla multietnicità, all'incontro fra culture e fra linguaggi, che ormai caratterizza non soltanto il contesto di Firenze, ma ormai molti altri contesti in Italia e non solo. Però quello che ancora non eravamo riusciti a fare fino a questo momento, fino a questa sera con Affluenti, era quello di riuscire a portare una poetessa, un'autrice a pubblicare e a far venire in Italia per una tournée con un libro tradotto appunto dalla collana di Affluenti, una poetessa che è qua con noi questa sera, eccola qua, la vedete qui accanto a me, si chiama Eva Krushel. Lei, c'è un applauso perché... E direi, insomma, è una scelta abbastanza coraggiosa quella di venire a presentare un libro, una traduzione italiana, la prima traduzione italiana del suo libro, niente meno che da Boston, perché Eva ci è venuta a trovare questa sera qui alla Polveriera, è arrivata ieri dal New Hampshire, e appunto è la prima autrice, è la prima poetessa che pubblica una traduzione italiana di un suo libro e viene in Italia tramite la collana e tramite il progetto di Affluenti per una tournée internazionale che inizia questa sera qui alla Polveriera e che proseguirà martedì prossimo 21 maggio al Caffè Letterario delle Murate, poi saremo il 23 maggio a Bologna e il 1 giugno a Bergamo, il 3 giugno a Milano e il 6 e 7 giugno a Roma. È un'autrice che ci è piaciuta fin dall'inizio moltissimo, sia per il tipo di linguaggio, per il tipo di poesia molto forte, molto particolare che ha. L'ascolterete questa sera, ci saranno sia le letture in inglese da parte di Eva che quelle in italiano di Gabriella Beccarelli, Margherita Lo Consolo e Francesca Sant'Angelo. E è una poetessa che in particolare abbiamo tenuto molto a pubblicare nella collana di Affluenti perché il suo libro affronta uno di quelli che sono i temi in questo momento più attuali, più caldi e scomodi anche in qualche modo, dello scenario e della situazione che viviamo, che attraversiamo in Italia già da molto tempo, ma con delle particolari ripercussioni in questa ultima fase, perché Contrabbando di Upupe, si intitola così proprio perché, come cita nella sua introduzione la traduttrice del libro Anna Aresi, Contrabbando di Upupe è la seconda raccolta in inglese di Eva Kruschel, poetessa polacca trapiantata negli Stati Uniti e presentata qui per la prima volta in italiano in versione integrale. Come suggerito dal titolo, la raccolta esplora il tema del contrabbando, ovvero dell'attraversamento legale o illegale di confini, insieme a oggetti di vario tipo, più o meno permessi. Ma anche e soprattutto insieme a sentimenti, idee, attitudini e lingue che possono essere percepiti da chi riceve l'immigrato o come una minaccia alla propria identità o come un grande potenziale di arricchimento umano e culturale. Nel momento stesso in cui trattano dei confini e del loro attraversamento, le poesie di Kruschel mettono in discussione o cercano di trascendere il concetto stesso di confine e la sua legittimità, in quanto limite imposto arbitrariamente da alcuni per separare e per etichettare l'altro come diverso e pericoloso. Quindi, le tematiche fondamentali del libro di Eva sono appunto quelle che riguardano fortemente la nostra stessa società e quello che da qualche decennio ormai sta accadendo a livello di massa. Nel contesto italiano e non solo. E come Eva Kruschel affronta queste tematiche appunto dell'attraversamento di confine e della messa in discussione stessa dei confini, è un modo, lo inizieremo ad ascoltare adesso con le letture, altrettanto scomodo e altrettanto caratteristico, che lei riprende appunto a partire da questo elemento poetico, simbolico dell'upupa, che è un elemento che ritorna in vari scritti, in vari momenti, sia della cultura occidentale, ma anche, come accade nel libro di Eva, è un simbolo, quello dell'upupa che è caratteristico per esempio anche della cultura ebraica, di cui ci sono vari riferimenti e vari rimandi in Contrabbando di Upupe, ma in particolare anche per esempio della cultura persiana, da cui Eva Kruschel riprende alcuni aspetti dell'elemento simbolico dell'upupa come elemento appunto come allegoria umana in qualche modo. Come allegoria della condizione umana in qualche modo del migrante stesso e come anelito dell'essere umano al superamento di qualsiasi tipo di confine e di qualsiasi tipo di limite imposto. E sempre citando dall'introduzione di Anna Aresi, che è la traduttrice dell'edizione italiana di Contrabbando di Upupe, la raccolta si snoda su diversi livelli, abilmente intrecciati dal punto di vista tematico e linguistico. C'è la vicenda autobiografica di Kruschel, che dalla Polonia si reca negli Stati Uniti, portando con sé vari pezzi della propria terra natale. Ma ci sono anche le vicende dei moltissimi immigrati, giunti negli Stati Uniti attraverso Ellis Island, alcuni di loro diventati famosi per i contributi dati alla cultura americana e mondiale, e i più, invece, rimasti nell'anonimato. C'è infine la vicenda dell'upupa, uccello importantissimo e portatore di molteplici significati, non solo nella tradizione letteraria occidentale, ma anche nella tradizione ebraica e in quella mistica islamica. Nel 2008 L'upupa è stata scelta come uccello nazionale di Israele, ma allo stesso tempo simboleggia l'esilio per i palestinesi. Questi sono solo alcuni dei molteplici significati che l'upupa incarna di volta in volta, o contemporaneamente, nelle poesie di questa raccolta. L'upupa è quindi portatrice sia di pace che di scompiglio. È un agente positivo, di cambiamento, ma di un cambiamento che, per poter realmente avvenire, porta a mettere in discussione certezze, vecchie opinioni e credenze, aprendoci, anche dolorosamente, al nuovo, all'imprevisto e all'altro da sé. E quindi io direi che innanzitutto, se vi va, potremmo iniziare dando subito la parola ad Eva Krushel e chiedendole... scusate, intanto finisco le presentazioni giustamente, perché non sarebbe possibile questa sera dialogare direttamente in inglese con Eva Krushel, arrivata da Boston, se non avessimo qua con noi un altro importante elemento di affluenti, ovvero Barrett Magarian, autore anglo-armeno, che, grazie al quale questa sera riusciremo appunto a dialogare con Eva e a tradurre Eva Krushel dall'inglese. E prima di passare alle letture da contrabbando di Upupe, la prima cosa che chiederei ad Eva Krushel è proprio come è nato questo libro e in che modo appunto è confluita la sua stessa vicenda migratoria dalla Polonia agli Stati Uniti in quest'opera e come Contrabbando di Upupe si ricollega alle sue opere precedenti e a quelle successive sia in inglese che in polacco, perché Eva Krushel appunto ha, oltre a tre opere all'attivo in inglese, di cui Contrabbando di Upupe è la seconda, ha anche all'attivo tre libri in polacco. First of all, ringrazio Edoardo Olmi e tutti a voi. Non posso esprimere mia allegria, gratitudine, hurra! Viva l'ensemble! can I answer your question actually because it's related to the poem I will read, the sausage poem, and it will be the answer, I promise. Is this okay? Yeah, I will weave my answer into the... If it's okay for you, we could start reading the first poem of the book and then the sausage poem, okay? You could start with the first poem about the Hopoe, and then there will be the reading by Margherita, and then you will read again the sausage poem and then with Francesca in Italian, okay? Yeah, fine, great. Thank you. Per rispetto a voi, a piedi, sì. Parlo un po'. Allora, comincio. Upupa. Conoscete? Uccello italiano. Di Montale, Ungaretti, sì? Okay. Can you feel the apparition? The hoopoe's wings beat under my blouse. The sound udut, udut, udut is stirring from my nipples. Pagan pole dancing. My breasts have Tourette syndrome. My breasts are in flux, as if singing church hymns, kneeling down, standing up, kneeling down. I have to stop and soothe them with new lullabies. The hoopoe is the debug messenger chattering under my bra. This action is not unprecedented. King Solomon sent the hoopoe across the oceans to the Queen of Sheba to urge her with religion. Pliny said nothing about the hoopoe. On the other hand, Kircher, in his Collegio Romano, had a hoopoe in his collection of skeletons, among bones of eagles, magpies, thrushes, and a Brazilian monkey. My valley of deprivation, my cloud of unknowing, pray for me, upupa epops. Convert me back to wonder. Cure my heart of such morbid desires to come home. It is you who take me across ocean, just as he once took all the world's birds on a pilgrimage to Simurgh, to a new land where jays are not jaded and finches do not fling seeds at small children. When I cross the border, I start hiccuping. The officer stares at my nipples. I carry wonder inside me. I bring abundance. I stir the wings within him. Senti l'apparizione? Le ali del lupupa mi sbattono sotto la maglia. Il suono. Mi trasuda dai capezzoli. Pole dance pagana. I miei seni hanno la sindrome di Tourette. I seni mi fluttuano come se stessero cantando inni in chiesa. In ginocchio, in piedi, in ginocchio. Devo fermarmi, massaggiarli con nuove ninne nanne. Lupupa è un messaggero di Bach che mi chiacchiera nel reggiseno. Quest'azione non è priva di precedenti. Il re Salomone mandò un upupa al di là dell'oceano, la regina di Saba, per esortarla alla religione. Plinio non disse niente dell'upupa. D'altro canto, nel collegio romano, Kircher aveva un upupa nella sua collezione di scheletri, tra ossa di aquile, gazze, tordi e scimmie brasiliane. Mia valle di privazioni, mia cloud of unknowing, prega per me. Upupa e pops, riconvertimi alla meraviglia, curami il cuore dal desiderio morboso di tornare a casa. Sei tu che mi porti al di là dell'oceano, così come lei una volta portò tutti gli uccelli del mondo in pellegrinaggio al Simurgh, una nuova terra in cui le ghiandaie non si stancano e i fringuelli non lanciano semi ai bambini. Quando attraverso il confine mi viene il singhiozzo, l'ufficiale mi fissa i capezzoli, porto dentro di me la meraviglia, porto abbondanza, risveglio in lui le ali nascoste. I that was great. I don't think I need to read anymore. Bye bye. So I like the sound she made. So I just wanted to tell you that actually Eduardo, from what I understood, and I understood half of, because my Italian, you know, but he said that hupo is the symbol, and I actually, you know, I always loved that bird, and it was more unconscious because it was just the love for the bird. So I imagined bringing the bird with me. But when I think harder about it, then I think the hupo represents the other. And I don't know how many of you know, but hupo is the national bird of Israel. But at the same time, it's a bird of exile for Palestinians. And if you know the poetry of Mahmoud Darwish, a Palestinian poet, he has a poem called Hupo, and in that poem he says, there is a hupo among us that dictates letters of exile to an olive tree. Grazie per questa lettura, non devo dire più niente, quindi ciao. Vorrei aggiungere una cosa in cui Edoardo ha detto che la... come si chiama il uccello? Upupa è un simbolo E io ho sempre amato gli uccelli. Questo amore per gli uccelli per me è una rappresentazione di l'altro, altrove. Altrove, sì. E anche vorrei raggiungere che l'uccello di Upupa è un è l'uccello nazionale di Israel, quindi è una cosa molto per i palestinesi è un simbolo di esile, di esile. Also, Eduardo mentioned Attar, 12th century Sufi mystic, who has the book called Conference of Birds, which is like Homer for them, okay, in their culture. And in that book, Hupo takes all the birds of this world on a pilgrimage to see the ultimate mystery, which is called Simurgh. And most of the birds really turn back or commit suicide. They cannot make it because they have to get rid of all the likes and dislikes. You know, if you love skiing, you have to forget about skiing. If you love sex, you have to forget about sex. If you like beer, you cannot see the Simurgh, okay? So in the end, only 30 birds make it, 30. And it turns out that Simurgh meant 30, right from the beginning. And I think also we are very lucky, actually, in a sense, to live in a Western culture where we celebrate our desires. They lead somewhere else or not, but we take them very seriously. Quindi c'è questo poeta della quando? Mistica di 12th century, 200, che ha scritto questo sorta di racconti in cui l'Upaba diventerà un simbolo di pilgrimaggio. Scusa, non sto facendo una traduzione ottima, lo so, ma quindi alcuni uccelli non possono raggiungere questo pilgrimaggio, alcuni sì, se loro piace il sesso non possono farlo. What was the next one after the sex? The sex? doesn't matter, ok, quindi più o meno, scusami, non ho fatto una buona... No. Assolutamente, no, il senso di quello che diceva Eva e emergeva insomma chiaramente dalla sua traduzione, cioè appunto il fatto che l'Upupa è un uccello che Eva riprende da varie tradizioni, da vari elementi culturali sia occidentali che ebraici che persiani appunto, e simboleggia allo stesso tempo, è stato considerato sì uccello nazionale di Israele, ma allo stesso tempo è stato assunto dai palestinesi come simbolo, come uccello simbolico del loro esilio, e Eva lo riprende anche appunto dalla poesia di questo mistico persiano del XIII secolo, Attar, dove appunto l'Upupa convince gli altri uccelli del mondo a iniziare un pellegrinaggio verso il Simurgh, ovvero verso quello che lui, Attar, definisce il mistero ultimo, e ognuno di questi uccelli nel suo percorso è costretto in qualche modo a abbandonare, a lasciare qualcosa a cui era particolarmente legato, affezionato, come in qualche modo accade appunto anche nella vicenda di tutte le persone che emigrano e che lasciano la loro terra natale in cerca di altri luoghi in cui vivere e resistere. Perfetto. Ma ho ripreso tutto da Barrett, eh? Can you read the sausage poem? Okay, fine. I buy a sausage at the airport before I leave Poland. Kiełbaska, kiełbasa, kabanos, kabanosik. This, my transcontinental dowry, the sacrificial baby of my tongue. Foreign gods hover over us. If God lets my sausage in, I will eat it like a saint. Circle a table with Gregorian chants. Folkberg variations. The baggage carousel spurts my luggage out. With an air of conspiracy, I transfer this sausage from my carry-on into checked luggage. I look around. I pray for my sausage while I move towards customs. The Angelus trickles, the Angelus salivates. Saint George is about to put his spear through a sizzling dragon. My luggage goes through a sausage scan. Can an old sausage be born young again? The officer pulls me aside. The officer holds my sausage to the light, his babushka trophy. It's a sealed sausage, I declare with pride. I've brought new species. But you declared no meats, the officer says. Sealed sausage is not a meat. Sealed sausage is a sealed sausage, I say, as the guardian angels of my sealed sausage swarm under the investigation light. The officer blinks when I repeat with determination, a sealed sausage is a sealed sausage. He looks blinded. My hypnotic alliteration throws him back into the waters of his childhood where eels jiggle Scottish dances. Oh, sweet detained sausage, saint of arrest, pray for us. May my new species have mercy on us. Escape at the borders. Oh, oven bird whose migratory song is a sausage, a sausage, a sausage. Dear sausage of martyrs, sealed patriarch, let the virgin liberty swallow it. Compro una salsiccia prima di partire dall'aeroporto in Polonia. Kielbaska, kielbasa, kabanos, kabanosik. Questa la mia dote transcontinentale, il bimbo sacrificale della mia lingua. Divinità straniere ci volano sopra. Se Dio me la farà passare, mi mangerò la salsiccia come una santa. Circonfusa di incenso, girando attorno a un tavolo con canti gregoriani. Variazione Folkberg. Il nastro trasportatore sputa la mia valigia. Con fare cospiratorio trasferisco la salsiccia dal bagaglio a mano alla valigia. Mi guardo attorno. Prego per la salsiccia mentre mi avvio alla dogana. Angelus. Aquilina, Angelus, salivazione. San Giorgio sta per conficcare la lancia in un drago sfrigolante. La valigia attraversa un salsiccia detector. Può una vecchia salsiccia rinascere giovane? La guardia mi prende da parte. La guardia solleva la mia salsiccia in controluce. Il suo trofeo babushka. È una salsiccia sottovuoto, dichiaro con orgoglio. Ho introdotto una nuova specie. Ma lei ha dichiarato niente carne, dice la guardia. La salsiccia sottovuoto non è carne. La salsiccia sottovuoto è salsiccia sottovuoto, dico, mentre gli angeli custodi della mia salsiccia si divincolano sotto la luce investigativa. La guardia sbatte le palpebre quando ripeto con determinazione. La salsiccia sottovuoto è salsiccia sottovuoto. Sembra accecato. L'allitterazione ipnotica lo riporta alle acque della sua infanzia, dove le anguille saltellavano danze scozzesi. Oh, dolce salsiccia in ostaggio, santa degli arresti, prega per noi che la mia nuova specie abbia pietà di noi, che sfugga i confini. O uccello da forno, il cui canto migratorio è una salsiccia, salsiccia, salsiccia. Cara salsiccia dei martiri, patriarca sottovuoto, che la vergine libertà se la ingoi. So, okay, yeah, fine. So I'll answer your question. But so This really happened, and that's how the book started. And in fact, after my sausage was arrested, if it wasn't confiscated, I would have sent it to the Vatican to become a relic. But it was confiscated, and I got an appetite for more. I was like, wow, this is so much fun. What do I smuggle now? But in fact, when I was in New York, I went a few times to Ellis Island, and I got interested in historical objects that immigrants carried with them. By the way, if you all understand, we don't have to translate. How do you feel about that? Just keep going. You understand? Okay, good. A little translation? Okay, just select the best part. Best. Okay, and so in fact, I went to Ellis Island and people carried with them, the immigrants carried goose feathers, live goats, capri, rosaries, honeymoon dresses, barrels of pickles, you know. There was one Swedish woman who carried a stained sheet only used to give birth. She wanted to show it to her new doctor. And then I was wondering what were the invisible things that people carried. For example, Albert Sabin, a Polish pauper from Białystok in Poland, carried a live virus, the vaccine that eliminated polio from the United States. Kahil Gibran, an Arab, carried a live virus of poetry that became his famous book, The Prophet. Paula Negri carried the dreams of stardom and she became the Hollywood star. So the point I wanted to make in this book, really, the book is really about the human desire. And in a sense, it's a polemic with attar, you know, that I explained to you, because I want to say that desire is like a giant in a solitary field. And it's so great. We are attached to silly things, but they are very important because they stand for something much bigger. And so if we smuggle things, it's because we smuggle infinity in our underpants. And that last sentence you should translate. Yeah, fine. In fact, you should translate just the last sentence. Ho capito tutto tranne le ultime parole. Barrett, sì. Che ci dici? Prova di fare un pochino, poi tocca a te. Questa è la risposta alla domanda originale. Questo a me veramente è successo al dogane, che avevo una salsiccia che è stata arrestata e poi anche confiscata. Quindi avrei pensato a me stesso cosa posso nascondere contro bannare ora. Quindi sono diventato una sorta di contrabbandiera. Scusa. Poi sono andato all'isola di Ellis Island a New York e gli immigranti tutti avevano portato con se stessi la roba, uccelli, capra, pecora. No. What else? Bottles of pickles. Bottiglia di cetrioli. Cetrioli, non cetrioli, ma una sorta di cetrioli. Poi hanno portato le cose invisibili. Invisibile. So a stained sheet. Una lenzuolo macchiato con sangue usato per gli uccelli. No. No. Per la nascita di bambini. Dobbiamo essere attori comici. No, non avevo capito la parola perché l'importante è che non hanno usato i cetrioli sottaceti per la nascita di bambini. Poi c'era un tipo che ha portato un virus che è stato la cura per polio negli Stati Uniti. Vero? Vaccino. Una vaccino, scusa. Quindi il mio libro è un libro che parla del desiderio umano, che è anche un polemico. E il desiderio è un gigantesco, giant? What's a giant? Un gigantico in un campo, scusa? Gigantesco in un campo solitario. Vero? E poi noi... Contrabbandare nei se stessi la infinità nei nostri mutante. Vero? Well, we struggle, we smuggle infinity in our underpants. Right. Chi non vorrebbe contrabbandare un po' di infinità nelle proprie mutande? Comunque no, grazie mille Barrett, perché appunto hai citato vari aspetti importanti del libro di Eva, che anche Eva appunto ci aveva un po' introdotto nella sua risposta, intanto che il libro appunto nasce veramente da una vicenda di contrabbando e quindi di confisca di niente meno che una salsiccia sottovuoto, come simpaticamente ci ha letto prima Eva Krushel e poi Francesca Sant'Angelo. E Eva giustamente ha citato il fatto che una sezione importante del libro di Contrabbando di Ufufe è dedicata appunto alla visita che Eva ha fatto a New York al museo di Ellis Island. Ve lo cito anche questo brevemente dall'introduzione di Anna Aresi: le vicende dei milioni di immigrati giunti negli Stati Uniti attraverso il porto di Ellis Island, un isolotto artificiale situato nella foce dell'Hudson, nella baia di New York, confluiscono in particolare nella serie di poesie Ellis, costituita da 14 poesie progressivamente numerate. E la documentazione è stata raccolta da Eva Krushel durante una serie di visite al museo dell'immigrazione di Ellis Island al Tenement Museum di New York. E appunto nel Lower East Side di Manhattan, dove il Tenement Museum si trova in due edifici storici che nel corso del XIX secolo ospitarono circa 15.000 immigrati di classe operaia di oltre 20 nazionalità. Le abitazioni sono state preservate come erano allora e lo scopo del museo è quello di sensibilizzare il pubblico al ruolo fondamentale che gli immigrati hanno avuto nella formazione e nello sviluppo della società americana. E appunto adesso we're going to listen to reading about Alice, okay? Alice One and another. E appunto Eva Krushel nel suo intervento citava alcuni dei personaggi che sono citati e confluiti nel suo libro, come Jankarski e Salomon, tutte persone di cui lei ha avuto notizia tramite le visite al museo di Ellis Island e che ha raccontato, le cui vicende ha raccontato poeticamente in Contrabbando di Ufufe, andando a scavare, a indagare proprio ciò che queste persone fisicamente, oltre che spiritualmente, hanno portato, fra cui cetrioli sott'aceto e per far nascere i bambini. No, comunque appunto lenzuoli dove venivano custoditi i bambini, insomma, appena nati, spesso durante il viaggio della migrazione. E io direi a questo punto abbiamo prima Gabriella che ci legge un altro testo del libro, e poi subito dopo Margherita Lo Consolo che ci leggerà appunto il primo testo dedicato ad Ellis Island all'interno di Contrabbando di Ufufe. Allora non lo leggo. Ok, do you want to read before? Yeah, fine. Yeah, ok. Fine, great. Sì, grazie. Lascialo così. Il contrabbando è disagio. La porta dell'aeroporto è socchiusa e da lei sgattaioleranno fantasmi e solide apparizioni che marceranno come soldati verso nuove frontiere. La musica del contrabbando è il jazz. È improvvisazione, possibile solo grazie a una rigorosa preparazione. L'uomo di Lescaut non imitava solo il mondo naturale, dipingeva cornuti esseri immaginari e altri misteriosi semi-animali senza vita. Trasgrediva, contrabbandava l'eccesso, portava alla terza dimensione. Persino la mimesis di Aristotele si arrende e si apre mediante il Deus ex machina, la catarsis epifanica, e a livello linguistico alle metafore. Joyce era un contrabbandiere di identità, evanescenze che tremolano. In una lettera al fratello Stanislao, Joyce catalogò alcune delle sue preferite. Cocainomane, spia austriaca, il fondatore del dadaismo e propagandista bolscevico. James Gavin dice per Joyce: l'intrigo e il pericolo erano evitare il padrone di casa il giorno dell'affitto. Emily Dickinson contrabbandò Longfellow e Jane Eyre. Suo padre Edward pensava che i libri contemporanei le avrebbero scombinato la testa. Quindi lei li nascondeva sotto il cespuglio di alloro o sotto il pianoforte. Cosa contrabbandiamo di lei nella posterità? Le lettere che chiese di bruciare dopo la sua morte, la carta di un cioccolatino di Parigi con su una poesia, una ciocca di capelli rossi, un foglietto con lo schizzo di una tomba sul retro, un francobollo da 3 centesimi, la ricetta di una torta di cocco, 2 daguerrotipi, i relitti dei suoi rebus che dissimulavano i desideri e lentiggini. Il contrabbando è un grande Kinder sorpresa, una matriosca, è pentimento, è una porta socchiusa. E adesso Margherita Lo Consolo ci leggerà appunto il primo testo della raccolta di Contrabbando di Upupe, dedicato alla visita, le visite che Eva Cruce l'ha fatto al museo di Ellis Island. Ellis 1. Portavano scatole, portano piume, portano trapunte, portarono bibbie, portavano candele, portano cuscini, portano vuoti e mappe, portano botti blu di tristezza. Portano una capra viva, portarono botti di cetrioli, portano un vestito da luna di miele. Portano pinzette, portavano spillette, portavano bottoni, portavano crocifissi, portavano uova benedette dipinte a mano. Portavano il libro delle preghiere, portano coltellini tascabili, portavano lacrime, portano macchine da cucire, portano scarpe di asino come portafortuna, portavano un duende scuro e luminoso, portavano bambini. Portavano fisarmoniche, portavano pipe di ceramica, portano paure, portano lenzuola, portano wurst, pretzel, ciambelle, bagel e nisch, portano la distanza da ciò che più hanno amato. Portarono vocali e consonanti, portarono spezie, intersezioni, portarono cuscini per dormire, portarono copriletti, portarono asciugamani, portano mangani, portarono mattarelli, portano un portaspezie, portano il dolore in 100 dolori, portano la speranza in 100 speranze. Grazie Gabriella Beccherelli e Margherita Lo Consolo, e durante la serata avremo modo di ascoltare anche altre letture tratte dalla serie appunto di poesie che in Contrabbando di Upupe sono dedicate alle visite di Eva Cruce al Museo dell'Immigrazione di Ellis Island. E prima di proseguire con le letture, visto che prima Eva appunto ha chiesto a tutti se conoscevate l'immagine di copertina, ovvero se qualcuno di voi aveva mai visto o ascoltato il suono di un'upupa, colgo l'occasione per ringraziare anche gli artisti visivi, le artiste visive che hanno contribuito a realizzare la copertina dell'edizione italiana di Contrabbando di Upupe di Eva Krushel, di cui una delle due è qua stasera, ovvero Simona Di Pasquale. E un applauso a Simona, grazie. E l'altra è Aurora Bresci, e questa sera abbiamo anche il piacere appunto di poter vedere qua i disegni, le opere che Simona e Aurora hanno fatto ispirate a Contrabbando di Upupe di Eva Krushel. E io andrei avanti ancora con le letture, e a proposito di come è nato questo libro e di confische, chiederei a Francesca di leggerci Litania delle confische. Litania delle confische. Testa animale di ignota origine, difendici. Benis babies, nutriteci. Cinture, abbracciateci. Nido d'uccello, radicaci. Cadavere d'uccello, risparmiaci. Bong, storditeci. Farfalle della proibizione, svolazzate grazia su di noi. Caramelle fatte da animali, addolcite le bestie contrabbandate in noi. Kesher cakes, portateci prosperità. Castagne, arrostiteci. Zampe di pollo, non saltate prima di schiudervi. Frattaglie di pollo, dateci sostentamento. Pillole di fertilità del cazzo, arrapateci. Urina di vacca, curaci. Sigari cubani, avvolgeteci di invisibilità. Corna di daino, proteggeteci. Sangue di daino, guariscici. Pene di daino, curaci le incertezze. Linguaccia di daino, falla ai nostri nemici. Gusci d'uova, fateci camminare con attenzione. Noci di ginkgo, sussurrate di oceani permiani. Chat, ipnotizzaci. Kinder sorpresa, coccolaci. Foglie, frusciate in noi. Accendino, acceca gli ufficiali della proibizione. Mombin, intratteneteci. Tortine lunari, assaggiateci. Matriosche, avvolgeteci. Oca, fai ciò che vuoi per noi. Cipolle, fate piangere gli occhi degli ufficiali. Frutto di palma, canta della nostra vittoria. Mango sott'aceto, ridacchia di noi. Pastiglie di piccione, spacchettate il tubare per noi. Semi, germinateci. Anatra intera, quacquacquacquaci. 13 bottiglie di rum per alcolico, saltellate in noi. Corteccia di albero, stratificaci. Gli oggetti elencati provengono dal libro Contraband di Tyrone Simon. Simon ha vissuto all'aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy dal 16 al 20 novembre del 2009. Lì ha fotografato più di 1000 oggetti detenuti o confiscati ai passeggeri e presi dalla posta internazionale diretta agli Stati Uniti. Grazie Francesca. Eva. Ok. Do you want to... later? Ok, it's fine. No. Did you mean if I could read the note? Okay, fine. Okay. Questo ovviamente era, diciamo, la genesi, come è nata questa litania delle confische e da parte di Eva Krushel. Ellis 5. I dietisti del primo ventesimo secolo scoraggiavano i bambini ungheresi, polacchi ed ebrei dal mangiare sottaceti all'aneto, con il loro presunto impatto negativo sulla salute delle vie urinarie. Bertha Wood deplorava i sapori acidi salmoidiosi e i cibi ricchi diffusi tra gli europei dell'est e gli ebrei. Avrebbero causato irritazioni sosteneva, rendendo difficile l'assimilazione, in gente già così emotiva, da andare troppo spesso dal dottore. Nella sua valigia, 50 rare orchidee in fiore. Contrabbanda eccessi, porta granelli di polvere, stami ed ovaie. Essere permanentemente in aria, trasgredire. L'orchidea, che fu il figlio di un satiro e di una ninfa, metamorfosò in una pianta. Il nome greco dell'orchidea è testicolo, horror vacui. Alla domanda se avesse altro di illegale, risponde sì, ho scimmie nei pantaloni. Sei tu che leggi Lupupa? O è lei a leggere te? Riesci a penetrare il mistero delle piume nelle piume? Lupupa porta silenzio nel mondo dei rumori. Ogni rumore ha un io stampato su di sé e ogni io galoppa da qualche parte, ogni io sulla propria motocicletta, ogni io si appropria dello spazio scavando gallerie. Lupupa è un mistico sufi che guida tutti gli uccelli del mondo in pellegrinaggio per incontrare il Simorgh, il mistero ultimo. Ma gli uccelli sono pieni di attaccamenti e provano a contrabbandarli lungo il viaggio. Ciò gli pesa sulle piume. L'usignolo contrabbanda amore per una rosa. Il pappagallo vuole portarsi la gabbia. L'anatra contrabbanda acqua. La pernice pietre preziose. L'airone il mare intero. La civetta tesori. Ma Lupupa dice, finché non moriamo a noi stessi, non saremo mai liberi. Lupupa dice, perché? Come puoi rimanere signore di te stesso se segui ciò che ti piace e non ti piace? Lupupa dice, incamminati per la tua via. Perché non sei una mandorla, sei solo il guscio. Lupupa vi contrabbanda dentro voi stessi. Lupupa ha contrabbandato Salomone a Saba. È il corriere di saggezza, il corrispondente fra falsi infiniti e l'infinità stessa. And then I'll translate it as well. My question is, so it seems, if I've understood you correctly, you're celebrating in the book the idea of smuggling, and smuggling is in a sense contains the most precious things in life. Quindi se io abbia capito bene, il libro parla della... è una celebrazione di questo concetto di il contrabbando. E quindi in questo simbolo le cose più preziose nella vita ci sono. Yes. Yes. So what I wanted to say that there is a disproportion maybe because the immigrants, you know, do not like to throw cheese wrappers and glass jars from their own country. And I, when I go from Poland to US, I take things that in US I won't have, or specific even, you know, shape of a glass or something, right? These are very silly things, really. But I want to say also that there is a disproportion between what we attach to and the greater desire we aspire to. between the sort of the infinity of our desire and the things that are made of clay that are very fragile. And I just wanted to show that disproportion, but also exalt the human condition with those attachments. And in that sense, that's a polemic between me and Attar and the Eastern way of viewing things, where you really need to get rid of the attachments in order to reach infinity. And my view is different. You have to use all the attachments, and when they exhaust you, or when you exhaust them, maybe you get to infinity, maybe not. But that's sort of what I believe in. C'è una separazione tra il desiderio, diciamo, delle cose fisica, no? E poi il desiderio più più metafisica, no? E io credo che la cosa importante voglio provare di dire in questo discorso di Ewa è che lei non pensa come lo pensano nelle religioni di India, ad esempio, che le cose fisiche, le soldi, eccetera, eccetera, il corpo deve essere lasciato cose per trovare l'illuminazione. Is that right, more or less? I think so. Yeah. Because I don't understand Italian. I think it's. Ora sentiamo Edoardo. No, in realtà penso hai espresso molto bene quello che credo, insomma, anche di aver capito conoscendo un po' il libro, che Eva cercasse di esprimere, appunto, cioè il fatto che diversamente da Attar, per lei Lupupa e quindi il viaggio simbolico che verso cui Lupupa porta a tutti gli uccelli del mondo, come nel poema di Attar, per Eva non si traduce, come in Attar, in un abbandono di tutto ciò a cui gli uccelli, metafora anche simbolica appunto dei migranti, sono attaccati, ma secondo Eva invece per raggiungere il mistero ultimo, come lo definisce Attar, per raggiungere in qualche modo una possibile saggezza in questo viaggio migratorio, non solo ciò a cui anche in modo corporeo appunto e materiale si è, diciamo, legati, non deve essere abbandonato e non deve essere sminuito, ma anzi, dice Eva, proprio in qualche modo deve essere esaurito, cioè bisogna arrivare fino al pieno compimento e alla piena esaustività dei nostri stessi desideri, no? Diceva Eva, appunto, il contrabbando è il contrabbandiere è colui che contrabbanda i desideri all'infinito, no? E fino a quando non si è cercato di contrabbandare i nostri desideri all'infinito, non si può mai dire se questi desideri sono veramente esauriti e non si può mai dire se veramente Lupupa ci ha portati o meno alla meta in questo viaggio verso una possibile saggezza. E a proposito di desideri, c'è un testo particolare anche che penso esprima abbastanza bene questa cosa che ci diceva Eva. Ippocrate raccomandava il consumo di pene di daino per risolvere difficoltà sessuali. Alcune donne in Taiwan lo mangiavano in gravidanza per fortificare la madre e il figlio, per farli ingrassare. C'è un bel gruppo di noi adesso e ognuno contrabbanda un pene di daino. Benediremo la nuova patria di virilità. La donna nana lo usa come un bastone, zoppica. Sua figlia ha con sé un pinocchio di legno. Il pene di daino gli fa da naso. Una nonnetta può appenderci sopra la borsa della spesa. I bambini lo useranno come ponte nel nuovo paese quando attraverseranno il fiume. Noi lo serviremo in un grande barattolo agli ospiti speciali come prelibatezza. Apriremo un ristorante sulla terraferma. È un dono di sacrificio, pene di naio preso dal daino mentre è ancora vivo, poi arrostito e disseccato al sole davanti agli occhi del daino. Lo faremo macerare in alcol e lo serviremo come vino di pene. lo raccomanderemo per infortuni sportivi. $200 al litro, a casa ci scalderà, ci moltiplicherà. Quali sono i veri desideri così travestiti? Daino è una parola sacra, è l'apparizione della bellezza. Horror vacui, afferra la gioia che vola. Margherita. Si nasconde tra le betulle, guizza, nascondino, come il mistero fa l'occhiolino. Un'apparizione di Daino, la candela della sua coda di nuovo nell'oscurità, il tintinnio della foresta, i palpiti della luce zebrati sul pavimento della foresta, linee ondeggiano in correnti, alberi contrabbandano il sacro, ma le anime si trasformano in foglie, corteccia, righe, fessure, steli, bucce. Gli alberi, i contrabbandieri di cimiteri con anelli di salmi, fanno a gara coi bambini il giorno di ogni santi. Da molti semi alati, le radici mormorano il libro delle ore, sfrecciano come fringuelli, non c'è modo di aggiustarli, si nascondono in fessure e sussurri. Ascoltano ciò che non è. Sono spediti e violenti, svelano, sfrecciano in avanti, il loro è uno svelamento, illumineranno il continente per me, tigri di collera e luce. Gli alberi non sono senza kadish, mimose, robinie giapponesi, fichi e sorbi. L'anima, composta di atomi piccolissimi, produce piccole stazioni di sogno. Gabriella. Un uccello del paradiso vola fuori dalla sua sacca all'aeroporto di Los Angeles. È il 2010. Un uccello di Dio fa frusciare la coda e scuotere la testa, a bocca aperta di fronte all'ufficiale della dogana. La versione operistica di una cornacchia. Il cugino di una ghiandaia vestita da pattinatrice. Si dice che non voli mai a parte quando soffia il vento. Nel 1522, stivati nel cargo della nave Magellano, la Victoria, una dozzina di uccelli del paradiso, morti come regalo per il re di Spagna da parte del sultano del Bacan, ora sgattaiola vivo fuori da una borsa riciclata del XXI secolo. Un fuoco d'artificio, o forse una meteora, contrabbanda immortalità nell'aeroporto. L'uccello dalle piume d'oro che non atterra mai e si nutre di rugiada. Per attirare l'uccello, i cacciatori Aru spalmavano il cerume delle orecchie sul tronco di un albero. Se un uccello in certe lingue sta per pene, un uccello di Dio che cosa vuol dire? Esagerazione fallica? Impollinatore di evanescenza? Oh, uccello del paradiso, distendi il tuo mantello da ballerina, scuoti la coda e agita l'aria, così prega, l'aeroporto in un ronzio vulcanico. Grazie Gabriella, e iniziamo ad andare verso chiusura, che credo che anche i ragazzi della Folveriera debbano iniziare un po' a risistemare gli spazi anche per domani. E mi sono accorto adesso che abbiamo saltato un testo, quindi a questo punto recupero. Non c'è vita per loro nel vecchio continente. Sti piccioni chiamati ratti si sono procurati la reputazione sbagliata. Tubano le loro litanie, cantano in faccia ai loro padroni di casa, si congregano sui balconi per interferire con gli inni domenicali. I piccioni sono fedeli migliori, più autentici. Ci avevano detto di prendere bastoni e picchiare sti bianchi di Buc. Un vicino aveva una pistola. A me avevano detto di colpirli. Il fruscio delle ali quando spiccano il volo, maestri di sopravvivenza e di telepatia. Che malattia nasce da un posto perduto? Il sangue si tramuta in acqua. Mi fanno il nido in testa, la mia parrucca diventa la loro culla, una barca. Attraverso i confini con questa acconciatura di piume. Hanno bisogno di un nuovo inizio, di rifare le ali. Tutta la pace del mondo mi sta appollaiata sulla testa. Ne prendo altri due e me li ficco fra le cosce. Cammino strano, barcollo. L'hostess mi offre una sedia a rotelle. Attraverso la frontiera tubando, l'ufficiale si chiede se sia drogata. Nessuno parte senza una missione. Io porto legioni di piume bianche, minuscoli terroristi che svolazzano nell'aria. Ellis 7. Che cosa trasportava la nave matrimoniale? 231 spose per corrispondenza con le fotografie dei loro futuri mariti. Le suole interne delle scarpe delle spose, foderate di gusci d'uovo. Camminano con attenzione di porcellana. Non vogliono martoriare i loro alfabeti. Che profitto ne avrebbero se guadagnassero il mondo intero e poi perdessero i propri sei spezzati? Che cosa portavano le navi bara? Bambino morto, bambina morte di pidocchi, nonna morte di pidocchi, nonno morto di pidocchi, corpi morti di pidocchi, pidocchi morti di pidocchi, pulci morti, pulci morti, pulci morti, pulci morti, pulci morti. I media tedeschi avvertono i civili che i polacchi rubano lo zucchero dal mercato tedesco. Un chilogrammo di zucchero costa 5 Zlitz, scusate la moneta, esatto, in Polonia, ma solo 2,80 in Germania. Horror vacui. Processione infinita di slavi con secchi di zucchero, nuvole di polvere bianca, lo zucchero aleggia su greggi di polacchi. Dolce levitazione, immagina nuovi commerci, castelli di zucchero, giochi di zucchero, oggetti erotici di zucchero, massaggi allo zucchero, argilla di zucchero, sciare su piste di zucchero. Immagina sabbie mobili di zucchero, la festosità di uccelli che si ingozzano di zucchero. I polacchi potrebbero pensare che i tedeschi gli debbano dello zucchero, ma il contrabbando di zucchero scorre in un archetipo molto più profondo e piuttosto vizioso. Lo zucchero venne da piantagioni che generarono molassa, che generò rum, che generò il contrabbando. Ok, io direi, vorrei fare, se c'è un tempo di 5 minuti, un'ultima domanda a Eva Kruschel e poi magari chiudiamo con altre 2-3 letture, e ringraziamo fin da ora la Folveriera per averci dato spazio questa sera e soprattutto in particolare Eva Kruschel, che è venuta a trovarci niente meno che dal New Hampshire, da Boston. E volevo chiedere a Eva una cosa che mi aveva incuriosito, Barrett, poi eventualmente se riesci a tradurre un po' la domanda per Eva. E in una sua intervista Eva ha detto una cosa molto bella secondo me, e cioè che quando facciamo poesia siamo tutti in qualche modo dei contrabbandieri, facciamo tutti in qualche modo contrabbando, perché contrabbandiamo senso, contrabbandiamo linguaggio e quindi contrabbandiamo esistenza, vita, al di fuori e oltre quelli che sono i confini imposti dal linguaggio stesso e dalle culture che di quel linguaggio fanno un muro, fanno un confine appunto per separarsi dalle altre. E questa cosa mi ha colpito molto e penso che c'entri molto anche con quello che stiamo facendo, che stiamo cercando di fare con Affluenti. Volevo chiederti appunto, volevo chiedere Eva, per quale motivo secondo lei la poesia è qualcosa che può e deve trattare questi temi, ovvero i temi della migrazione e del superamento dei confini linguistici, culturali o fisici che siano, e anche un po' in generale cosa pensa, diciamo, dell'attuale situazione e dell'attuale crisi migratoria. Cosa secondo lei la poesia in particolare può fare in questo momento di fronte a questa diciamo situazione, a questa crisi molto difficile che stiamo attraversando, e in particolare anche lei che cosa fa e che cosa cerca di fare negli Stati Uniti con la poesia e non solo, in chiave appunto di fronte a quella che oggi è l'emergenza e la crisi della migrazione. I hope I understood. You said that I'm very beautiful. Ah, yes, good. And that all the books sold. And we go to Progida. I want to go to Progida. But okay, so if I understood well, you talk about linguistic type of migration and what can poetry do now? I try in English, okay? Okay. Maybe, okay. I will try. In an interview I read about you say that in your opinion, when we do poetry, we are all smugglers. We always do some kind of contraband. Because we used to contraband sense, we used to contraband language without borders, beside borders of language, of the same language, of the borders that language used to put to divide people. And instead poetry is a way to contraband sense and to contraband language beyond borders, okay? And why, especially in the light of that, why do you think poetry is something that should and can talk about those themes of migration and of borders, okay? And what do you think poetry can do in front of migration crisis? So that's really interesting. So I think when you look at the, and you know best because you studied Latin, but if you look at the Greek and Latin origin epistemology of the word metaphor, you know that it is metaferein, right? That you carry from one domain onto another, you map, right? Now, if you look at the word translation in Latin, and also Greek has similar, it is also the idea of carrying, of dislocating or locating, and in fact, in theological sense, translation meant dislocation of relics, and it was a holy theft, right? In medieval times and in antiquity. But basically, in a sense, metaphor then is this idea of carrying over the border. Because if you look at the words themselves, words are migrants. They are immigrants, migrants, because they cross-pollinate the word. If you read Emily Dickinson, you understand how strange words are, how multivalent, and that you can look at it with all the facets, like a diamond, right? And so this shuffling from one domain onto the other is very close to me, because if you write in a non-native language, you always translate, mistranslate, you always shuffle in between. It's always carrying something like like crossing the border. Does it make sense? Whether it's visible or invisible. And into a certain extent, we all do it, I think, especially as writers. So that's what poetry can do. And I do think that encountering the other, a hoopoe, a mystery, is also another task that poetry facilitates because of empathy. In a sense, empathy and exile are really related because xenos is a stranger, is the other. Xenitheia in Greek is exile, which actually for monks, once again, in antiquity was a very positive thing, a spiritual detachment. So, but also there is xenophobia, right? So this idea of, you know, literature really has a task of not giving you answers. I don't know if you know Szymborska in her Nobel Prize speech, Wisława Szymborska, Polish poet, says, hey, it's so good, you are a poet, you're not a politician. You don't have to provide answers, just ask questions, just inquire. And that's what language can do. So I think we don't have to worry about ideology pushing our agenda. We have to be true to ourselves and to the beauty as poets. And if it's pure, and even if we are even if we made a mistake, if it comes from purity of heart and the faithfulness to beauty, people will still believe us, even if we made a mistake. Does it make sense? Good, we don't have to translate. I think everybody who stayed so late, you actually understand the English. Perfect, good. We have to translate. Yeah. Thank you. Yeah, that's good. Ok, siete riuscita più o meno a tradurre qualcosa? Barrett, se ci vuoi tradurre anche tu qualcosa del... Ok, no. Perfetto, ok. Stanco. No, assolutamente. Volevamo scampare il Google Translate, ma penso che ce l'abbiamo fatta benissimo. No, let's not translate because they understand. Yeah, I know, they understood. Fine. Ok, chiudiamo allora con le ultime letture da Contrabbando di Upufe e ringraziamo ancora la Polveriera e tutti quanti voi per aver resistito fino a quest'ora. E il libro lo trovate qua e Eva Krushel sarà anche martedì prossimo, il 21 maggio, al Caffè Letterario delle Murate, sarà la seconda data fiorentina che faremo qua con Contrabbando di Upupe e poi ci sposteremo il 23 maggio al Centro di Poesia Contemporanea di Bologna, il 1 giugno a Bergamo e il 3 giugno saremo al Caffè Letterario Colibrì di Milano, il 6-7 giugno a Colleferro e a Roma. E io ho promesso Sardegna e ho promesso anche Procida, quindi mo so cazzi. Barrett, preparati perché... Translate, please. Sì, qualcuno di Procida, andiamo. Esatto, sì. Sì, perché mi piace molto il postino. Ischia, possiamo andare alla Ischia anche, sì? E Sardegna, forse? Ok. Se avete amici o contatti a Procida, salvate una poetessa che è venuta apposta dagli Stati Uniti, grazie, e portateci anche Barrett, magari. Esatto. Margherita, facciamo l'ultimo giro di letture. Okay. Preghiera della gravità. Indosso il cuore della civetta sulla testa per conoscere i tuoi sogni. Il tuo viso, una caverna in cui i fantasmi dei miei antenati incidevano cavalli, rinoceronti e leoni a 8 zampe. Il tuo polso, un vitino di colore di valore microscopico. Imbotti noi portiamo la tristezza di 1000 anni. Preghiera a mezz'aria. Porto sul collo i piedi di un mistico, la nube della non conoscenza. C'è un volto dentro il mio volto, un airone sacro, un eikon viene qui inciso a sassolini. permanenza del santo, delineo dei cerchi, i tratti continui. Portiamo dentro di noi la luce, i nostri volti, ciascuno un'icona, strati traslucenti di colore. I confini delineano il sacro si nasconde in attraversamenti, intercessioni, reliquie di possedimenti, reliquie di bagni e cucine, sospesi su nuovi precipizi. ...1794. La legge del Massachusetts chiede che gli indigenti vengano rimandati al loro paese d'origine o a qualsiasi altro posto oltreoceano a cui appartengano. 1875. La legislazione sull'immigrazione bandisce detenuti, prostitute e lavoratori indiani. 1882. L'immigrazione dalla Cina viene ridotta. Pazzi e idioti rimandati indietro. 1885. Poveri, poligami, matti, esclusi. 1901. Il proprietario di un negozio di cibo in una stazione ferroviaria viene accusato di infastidire gli immigrati. 1903. Epilettici, mendicanti professionisti, anarchici, esclusi. 1907. Imbecilli, deboli di mente, tubercolotici, esclusi. 1908. Robert Watson, un commissario all'immigrazione, viene obbligato a dimettersi in quanto sotto di lui l'immigrazione sale alle stelle. 1909. Per elevare gli standard delle ispezioni, un commissario dell'immigrazione, William Williams, decide che ciascun immigrato debba avere almeno $25 e un biglietto per la propria destinazione. Gli ispettori mettono immediatamente in atto la nuova normativa anche nei confronti degli immigrati che avevano lasciato l'Europa prima che la norma sui $25 fosse resa pubblica. Nei successivi 11 giorni, 668 persone vengono rispedite ai rispettivi porti di partenza. 1917. Analfabeti esclusi, tutti giapponesi esclusi. Ellis 11. Gli stranieri non hanno alcun diritto intrinseco di arrivare qui. Le razze straniere, e soprattutto quelli del Mediterraneo, dell'Oriente e dei paesi slavi, devono essere trattate con sospetto, perché il pericolo sta nell'indebita preponderanza di criminali, matti e di coloro che potrebbero diventare un peso per i cittadini. Gli immigrati arrivano nel momento in cui sono più inclini a commettere crimini. Sono liberati dagli obblighi morali e dalla paura di perdere la propria casta, cosa che, negli strati più bassi della società, è insieme alla religione il deterrente più forte contro la criminalità. Commissario William Williams. Sia Ellis che Alcatraz sono nate come fortezze militari. Sia Ellis che Alcatraz sono state teatro di episodi cruciali dell'esperienza americana. Ellis 13. Il commissario William Williams scrive al presidente Theodore Roosevelt: le perverse caratteristiche dell'immigrazione attuale non possono essere arginate mediante la sola identificazione di ulteriori disabilità specifiche, come per esempio l'analfabetismo, perché anche le nuove disabilità proposte continueranno a riversarsi in questo paese stranieri la cui presenza tenderà ad abbassare i nostri standard di vita e di civiltà. Commissario William Williams, 25 novembre 1902, al presidente Theodore Roosevelt. Ma sono ora arrivate moltitudini di uomini dalle classi più infime del sud Italia e uomini della peggior specie dall'Ungheria e dalla Polonia. Uomini di specie tale che non hanno né capacità, né energia, né alcun tipo di intraprendenza o iniziativa e arriveranno in numeri che sono aumentati anno dopo anno. Come se i paesi dell'Europa meridionale si stessero disfando degli elementi più sfortunati delle loro popolazioni. Ellis 12. Qual è il tuo talento? Professione? Quanti soldi hai? Sei single? Sei sposato? Sai disegnare un diamante? Come si lavano le scale? Partendo dall'alto o dal basso? Le domande degli interrogatori che venivano rivolte agli immigrati che sbarcavano a Ellis Island provengono dal museo di Ellis Island. Francesca, e poi vi salutiamo. Lupupa, contrabbanda, primavera e gratitudine. Lupupa, contrabbanda, morte. Cimiteri, cimiteri e morte, primavera di morte, morte, primavera, primavera e morte e gratitudine di morte, primavera di gratitudine. Lupupa, contrabbanda, lupupa. Lupupa è il D-book. Lupupa, contrabbanda, D-book. Il D-book, contrabbanda un upupa. Finché non moriamo in noi stessi e finché continuiamo a identificarci con qualcosa o qualcuno, non saremo mai liberi, dice Lupupa. La via spirituale non è per chi è avvolto dalla vita esteriore, dice Lupupa. Perché? Come puoi rimanere signore di te stesso se segui ciò che ti piace e non ti piace? Dice Lupupa. Il contrabbando è avvolto in esteriori. Il contrabbando deve trasgredire se stesso. Il contrabbando è la via del pappagallo. Incamminati per la tua via, perché non sei una mandorla, sei solo il guscio, dice Lupupa al pappagallo. In questo vasto oceano il mondo è un atomo e l'atomo un mondo. Chissà che cosa vale di più qui, il corniolo o il sassolino, dice Lupupa. Com'è che non vedo Lupupa o che si trova tra gli assenti, dice il profeta Sulaiman nella sura Al-Amal, nel Santo Corano. Lupupa è invisibile, Lupupa è sempre in progress. Non c'è progressione senza Lupupa. Grazie Francesca Sant'Angelo, Margherita Lo Consolo, Gabriella Beccherelli per le letture di questa sera da Contrabbando di Upupe di Eva Krushel. Grazie ancora infinitamente, continueremo a contrabbandare Eva Krushel all'infinito, speriamo anche fino all'isola di Procida. Grazie a Barrett Magarian per la traduzione dall'inglese e alla Polverera soprattutto per averci ospitato e a tutti voi per aver resistito fino a quest'ora. Il libro è qua, grazie, a presto.